Cosa? Che stronzo, Alfonso. Benvenuti, puntata numero 113. E stasera, vabbè, avete già capito di cosa parliamo. Tra l'altro è tipo il film più pubblicizzato in questo momento. Dov'è che avevo visto la pubblicità che faceva ridere? Fastweb, chi è che cazzo faceva? Non mi ricordo più. Vabbè, e parliamo di Luga, ma non Oddis. Oh no. E stasera con me ci sono Jacopo e Andrea. Contante. E che hanno visto entrambi Luca. E ne parleranno tra poco. Prima dirò che è un film che è uscito. Cosa, quando è uscito? 2 settimane fa, più o meno. E è un film che è uscito su Disney Plus, nonostante sarebbe dovuto uscire al cinema, poi vabbè se la menavano anche loro perché sarebbe dovuto uscire al cinema, e poi magari parliamo anche di questo, ma mi sa che ne abbiamo già parlato tra l'altro. E insomma è piaciuto molto a tutti. È un film ambientato tra gli anni 50 e gli anni 60 in Italia, e parla di Luca, che è un tritone, c'è cioè un mostro marino, però ha le sembianze di un tritone, che vive, è un ragazzino che vive nelle profondità, non è vero, vive poco fuori la costa Ligure, e un bel giorno esce, incontra un altro tritone, un altro cioè mostro marino, Alberto, che lo convince a uscire dall'acqua e scopre che uscendo dall'acqua diventa umano. E almeno con le sembianze umane. E i due amici, cioè i due fanno amicizia e decidono di avventurarsi nella città vicina, nonostante i cittadini caccino i mostri marini, e insomma sono comunque persone normali e razziste nei confronti dei mostri marini, come tutte le persone liguri, tra l'altro. E si avventurano perché sognano di poter trovare finalmente una vespa, perché a quanto pare per gli americani il nostro sogno è quello di guidare una vespa, e di essere liberi e di girovagare nel mondo, eccetera. E, le premesse narrative sono che appunto i mostri marini sono nascosti sott'acqua, e quindi il motivo per cui Luca non è mai stato in superficie è che è stato educato nel stare lontano dagli umani, perché gli umani li cacciano, comunque non li cacciano, ma hanno paura di loro e quindi tra virgolette li odiano. E la motivazione di Alberto è il solito ragazzino tra virgolette orfano, nel senso che vive da solo più che altro, che insomma è un po' un Aladdin Disney. E devo dire altro, sì, forse nella città loro incontrano una ragazza, Giulia, che gli parla di una gara che si chiama Porto Rosso Cup, in cui si vincono dei soldi, soldi che potrebbero consentirgli di vincere e comprare una Vespa, e quindi loro decidono di diventare amici di Giulia e gareggiare con lei, allenarsi con lei per fare questa gara. E basta, il cartone di fatto parla di questo, ma poi ovviamente come tutti i cartoni Disney parla di 2000 cose, e non siamo a livelli di profondità assurdi, però insomma tratta temi tipo il razzismo, tipo anche un po' di educazione, un po' di, insomma, non lo so, cioè parla di un sacco di roba anche questo, è un po' meno originale rispetto a Soul. Però è comunque Pixar, come dice Jacopo, è di serie B. È come dice, la squadra B, no? C'è la squadra A, la squadra B, e poi c'è la squadra B che si deve mettere le canotte fosforescenti. La cosa interessante di questo film, cartone, lungome coso, come cazzo volete chiamarlo, è che appunto è ambientato in Italia, ma per la prima volta forse nella storia degli Stati Uniti d'America, invece che ambientare qualcosa fuori dall'America e stereotiparlo, hanno deciso di fare delle ricerche sul posto in cui l'avrebbero ambientato, e quindi non dico che sia stereotiparlo. Esatto, non dico che sia, non dico che sia attendibile o sia uguale all'Italia degli anni 50, però rispetto, cazzo, a tante altre cose è il più vicino, forse. Non lo so. Vabbè, ma il regista è italiano, Il regista cioè italiano, genovese. sì. Il regista infatti è Enrico Casarosa, che ha già collaborato con Disney più volte, e più come artista che come regista. Credo che questo sia il suo esordio alla regia. Ha fatto un cortometraggio, ma e basta. Voglio la E luna? No, sì, che tra l'altro è molto simile. è Vabbè. molto bello, però secondo me è uno dei più belli degli ultimi che hanno fatto. Chi altro c'è di famoso? Forse, boh, non lo so. E lo sceneggiatore, forse, che però no, non ha fatto neanche, in realtà, neanche lui. Dici tra gli creatori? Sì. Ma sì, non ci sono nomi, Il nomi produttore enormi. è Pete Docter, Vabbè, sì. che vabbè, è il guru Pixar, che ha fatto anche appunto il Soul, Inside Out, tutte queste robe qua. Sacha Baron Cohen? E Sacha Baron Cohen, sì, no, vabbè, poi ovviamente nel doppiaggio ci sono alcuni esempi più o meno di persone più o meno famose, perché c'è Maya Rudolph, che è un'attrice abbastanza famosa, Che i non la due conoscesse ragazzini, è è quella di quella di Bridesmaids, fatto anche di Good Place, cioè è quella che è un po' ovunque, attrice comica che sta un po' dappertutto. Alberto, che è il ragazzino ribelle, è coso, è Jack Dylan Grazer, che ha fatto, era Shazam? in It. Ah, anche in inizio, è quello di Shazam però. Sì, è quello di Shazam, ma era anche in It. E chi altro c'è? Non mi ricordo. Vabbè, c'è Sacha Luca. Baron Cohen, come ha detto Andreas. Ugo? Ugo? Ugo. Sì, Ugo. No, c'è già con Tremblay che è quello famoso per aver fatto Room, il film quello con la tizia. Mi sembra che fosse lui, non Sì, è lui, è lui, è lui. so sicuro. Jim Gaffigan pure è un comico abbastanza famoso. Ci sono degli italiani. Ce ne sono tanti Esatto. italiani, Sì. effettivamente. Tra cui appunto c'è Marina Massieroni, che è quella di Aldo Giovane Giacomo. Ex Aldo Giovane Giacomo. E sì, cioè, allora, di cose da dire su questo film ce ne sono parecchie. Allora, intanto, appunto, come dicevo, hanno fatto delle ricerche e mi pare appunto che abbiano pagato qualcuno per studiare anche come fare animazione di italiani, che è una cosa per cui ora sono abbastanza sensibili alla Disney, come avevano fatto in Soul per gli afroamericani. Ops, forse non l'hanno detto lì, però vabbè. No, non lo so se l'hanno detto ufficialmente. Abbiamo studiato come gli afroamericani si muovono e come muovono diciamo, come le loro espressioni facciali. Non credo l'abbiano detto pubblicamente, però insomma, qua l'hanno detto. I disegni sono abbastanza accurati per quanto riguarda la città, anche se in realtà sembra quasi Sicilia più che Liguria, ma vabbè, questo poi è un problema nostro. Hanno fatto una cosa che Angela mi ha fatto notare, che è molto figa, ed è una cosa abbastanza stupida in realtà. La spiaggia è di sassi. Non era così scontato. È vero, hai ragione, non ci avevo pensato. Neanche io. Non era così scontato, perché in effetti è un dettaglio, vabbè, almeno è Liguria, insomma. Che altro? Ah, hanno infilato nomi e parole italiane all'interno. Ora, i nomi sono molto carini e sono anche pronunciati abbastanza bene, il che è molto figo per essere una roba americana. Le cose che dicono dentro, sì e no, nel senso che ogni tanto esagerano. Vabbè, alcune, diciamo, imprecazioni sono un po' infantili, ma in senso cattivo. Nel senso, cioè, viste da un italiano sembra un po' una. Vabbè, non lo so, magari è solo una mia impressione. Santa Mozzarella mi sembra un po'. un po' finto, perché, ecco. Tanto è che non lo sappiamo, cioè nel senso, un conto è dici, cioè Luca Paguro o Alberto Scorfano, capisci da dove vengono i cognomi, fa ridere, cioè, no, è carina come idea. Anche Marco Valdo, io ho amato che lei si chiami Giulia Marco Valdo, di cognome Marco Valdo, è stupendo. Sì, no, ma quelli, però, i nomi sono stracarini, anche perché appunto sono pronunciati normalmente, cioè c'è un po' di accento, però sì, insomma sì, non è Marco con la K, ecco. Però quello che dicono loro, tipo appunto Santa Mozzarella o Silenzio Bruno, cioè sono cose che da un lato, magari un po' per la pronuncia, suonano male, però dall'altro potrei quasi capire, ah, magari quando uno è bambino c'ha un po' di frasi o di cose che hai capito che ti inventi anche come comunità di bambini, no? Cioè anche come classe. Sì, o... sì, sì, infatti ci sta, è solo che... O magari come cosa regionale. Insomma, vabbè. Magari, cioè, non vuoi, perché magari poi arriva il regista e dice, no, guarda, io da piccolo dicevo Santa Mozzarella, quello che è, perché in Liguria, devo dirlo io, si diceva. Sì, sì, sì, beh, chiaro. Cazzo, ne so, cioè. E, no, è carino che non sia tipo le solite robe stereotipate, questo sì. È carino che il ragazzino grasso lo chiamino Ciccio, che è carina come cosa. Che è una cazzata. Cazzo, però, no, mi sono reso conto adesso, è vero. Cioè, non è così, non è così scontata come cosa. È carino che la pasta abbia i formati giusti e i nomi giusti, cioè... Le trenette, chi te le dà le trenette? Sono dettagli che comunque fanno piacere, nel senso che finalmente, cioè, gli americani in realtà per loro l'Italia non esiste, cioè nel senso c'è una melma strana che, in cui c'è la Francia e l'Italia e la Spagna, e loro non sanno mettere nel mappamondo. Mi fa piacere che almeno questa ricostruzione sia abbastanza accurata ed è carino. E, vabbè, niente, poi ditemi voi. Cioè, a me è piaciuto molto, è molto tranquillo. Sul finale mi sono anche un po' commosso, perché è molto tenerino alla fine. E anche i titoli di coda, non so se avete notato. E, però è molto carino, non siamo a livello di Soul, comunque che è molto, è molto più grosso anche come tipo di impatto che può avere su una persona, però mi è piaciuto molto. Ma se posso chiedere cosa c'era, perché mi sfugge, nei titoli di coda cosa c'era di... I titoli di coda erano tipo tutti disegnati. E c'era un po' il continuo, tra virgolette, della... Perché allora, il film è ambientato durante l'estate, e ovviamente poi l'estate finisce, e quindi, come al solito, c'è il solito... Vabbè, che poi fa parte della vita di tutti i giorni, che quando finisce l'estate, insomma, ci sono l'addio agli amicizie e tutto il resto, e lì c'è tutto il proseguo di cosa succede, alcune scenette di cosa succede dopo il film. E tra cui la corrispondenza tra le persone che sono lontane, ci sono dei momenti, è molto carino, mi sono un po' commosso, è veramente stracarino, sono solo disegni, è super carino. Vabbè, magari sono io un po' tarato male. No, perché è bello il film. E basta, ditemi voi. Prego. Andrea. Io ho avuto un problema che non... Nel senso, come hai detto tu, ce l'ho guardato, però non sono riuscito a non paragonarlo a Soul, e quindi non mi ha convinto. Cioè... Allora sei caduto nella trappola dei film di serie A e serie B. Sì, cioè nel senso è carino, sì, è tutto, però non mi ha lasciato, cioè non mi ha toccato, non mi ha, no. Boh, l'ho guardato e basta, nel senso. Forse proprio perché, cioè appunto, l'ho paragonato a Soul durante la visione, dopo, prima e tutto, e quindi non mi ha fatto effetto, diciamo, ecco. Jacopo si è suicidato dopo questo. Oh, no, pensavo volessi dire qualcosa. No, tutto qui. Non... A me pure ha fatto questo effetto. Secondo me è un film che è un po' in ritardo. Cioè, fosse uscito tipo una decina di anni fa, anche tipo 6-7 anni fa, è che ormai dai film Pixar mi aspetto qualcosina di più. Cioè, un conto era l'epoca di Up, l'epoca di Wall-E. Beh, ma Up, se posso dire, è a livello di Soul come... No, vabbè, i primi sì, i primi 15 minuti sì, però io dico la storia e anche gli ultimi, quando apre il libro dei cosi, devo sì. dire che lì... No, io dico come storia principale, cioè dico come significato, cioè... No, ho capito. A livello di impatto, a livello Soul di impatto emotivo, sì. Cioè, è che Soul è su un altro piano, ma non solo Soul. Per me, anche, dico anche Inside Out, che mi ha colpito meno di Soul, sinceramente. Mi ha... Deve essere stato più un Toy Story 3 di Inside Out, a me personalmente, ma è una mia sensibilità, una mia nostalgia. Perché a livello, diciamo, un po' più oggettivo, se guardo un po' più in alto, Inside Out è un film più difficile da fare. Soul è un film più difficile da fare. Questo mi sembra un film leggermente fuori tempo, e che magari è una buona cosa, cioè magari invecchia bene, una cosa più senza tempo, una cosa più eterna, questa storia qui. C'è una cosa, secondo me, che lo salva per chi ha avuto questo tipo di esperienza, per chi ha avuto questo tipo di infanzia e questi problemi. Ho sentito molti parlarne come di un'allegoria di una persona che scopre la propria sessualità come cioè si scopre omosessuale, insomma. Ah, perché vabbè, c'è il cambio del tra tritone e uomo. Esatto, c'è questa allegoria tra questi tritoni che sono appunto dando una caccia in questo villaggio di pescatori, questi mostri marini. E c'è anche, cioè non è solamente questa come metafora, no, del fatto che loro diano una caccia, si devono nascondere, devono sembrare uomini, devono sembrare normali. C'è anche una relazione molto stretta fra i due tizi, no? fra Luca e Alberto. Sì. E quindi tipo quando è uscito il trailer, molti, diciamo, online che sono in quella comunità hanno riconosciuto questa cosa, ci hanno visto questa cosa dentro. Io non ce l'ho visto troppo, nel senso, cioè, ci sta chi ce la vede, però per me è più la storia, cioè, è più la solita voglia di andare via, cioè, di allargare gli orizzonti, no, di, non lo so. Sì, io l'ho vista più su, in generale, bullismo e... ma anche un po' di pregiudizio sulle persone, cioè molto più generale. Più pregiudizio, esatto. Comprende anche comunità LGBTQ+, più e cazzo che volete, però non è specifico di quello, è in generale di... insomma, tutti i mascheri per apparire insieme agli altri, ma in realtà non lo sei e ti devono accettare. La morale del film è che tu dovresti essere accettato per quello che sei davvero. Sì, in tutti i sensi, cioè... non solamente perché sei tritone, cioè magari c'è anche la tizia nerd, cioè sì, c'è anche la madre che deve un po' lasciare andare i figli, cioè c'è tutte queste tematiche molto Pixar. Sì, sì, sì, beh, poi sono le mie preferite, tipo la nonna che gioca la nonna è main, cioè assurda, quello che dice scopa in mezzo alla piazza, cioè ci sono delle botte di genere. Le vecchiette in questo film mi fanno crepare, quelle lì, vabbè, spoiler. Che molto italiane. Molto italiane le vecchiette in questo film mi fanno collassare. Sono delle vecchiette metal. Mi piace anche, cioè, anche personaggi banali come il bullo, il padre di Giulia, cioè... non lo so, c'hanno un sapore in più, c'hanno padre qualcosa di Giulia in più. È molto carino perché alla fine, vabbè, ha tutta la sua evoluzione privata. Il bullo è l'unico personaggio che mi ha fatto cagare perché non ha nessun tipo di... è piatto, non ha nessun tipo di evoluzione, che ci sta, però vuol dire anche che è il personaggio che mi è piaciuto meno. No, però appunto, cioè, per quanto fosse... in realtà, cioè, il padre di Giulia... è un po' più, del personaggio banale di solito, cioè ha un qualcosina in Sì, più. ma anche dopo nei titoli di coda non so se hai visto che ci sono tutte le scenette con lui e la Sì, però dico, parte cioè, è solito, capito, inizialmente finale. Ah, io mi sono burbero. perso queste scene. Cazzo, non mi Oh, ricordo. sono super carine, Mi ricordo solo quella dello zio Ugo negli abissi e basta, solo quella. Ce Andrea. No, no. n'erano altre? Sì. Vabbè, Oh, porco. niente. Non lo so, vabbè. No, invece, a proposito di quello che hai detto, a me è piaciuto, vabbè, ovviamente Soul mi era piaciuto di più, però questo lo vedo come un film più accessibile anche per i bambini. Nel senso che Soul ti puoi fare tutte le paranoie, tutti i viaggi mentali che vuoi, però io se fossi un ragazzino preferirei rivedere questo che rivedere Ah, Soul. beh, ovvio. E tra l'altro c'era questa scena, dopo sono tornato in treno domenica e c'era sto cazzo di bambino di merda, dico bambino di merda perché era, a parte che urlava, ma questo perché è un bambino, no, perché era mezzo francese, Ah, ok. e Chiaro. che voleva assolutamente vedere Quindi. Luca, ma l'aveva già visto, e suo padre diceva, ma l'hai già visto? E lui, sì, lo voglio rivedere da questa scena, e l'aveva guardato metà di Luca. E in effetti condivido, cioè nel senso questo film è molto più accessibile, è molto più carino, è molto più godibile rispetto a un Soul per un ragazzino, Ed è ovviamente. bello da vedere, cioè Soul, Esatto. ci sono alcune scene stupende, però è molto più terreno, no? Come Sì. stile. Questo è stupendo da vedere, cioè quelle scene spettacolari. Ma gli mancano solo le canzoni a Luca, cioè se avesse le canzoni Vero? sarebbe la tragedia per i genitori stupidi. Non lo so. In realtà ci sono le canzoni nel film che però non sono per bambini e sono le canzoni italiane, quelle Ah, vabbè, sì. Me canzoni italiane, quindi la radio. c'è che cazzo ne Un so, bacio a Gatto e la mezzanotte. Volpe, c'è Tintarella di Luna, c'è Fatti mandare Sì, dalla mamma, sì. e per un italiano fa super ridere. Siamo in società di noi. Comunque, come posso dire? È uno di quei film che, non lo so, che rimane. Questo è vero, cioè. Adesso ripensando a come visivamente ti rimangono un po' i colori, ti rimane un po' la luce. È un film Anche molto, molto la luminoso. città è veramente figa. Sì, esatto. E sono benvenuti i prossimi 2 anni di bambini che diranno Santa Mozzarella in tutto il mondo, invece che dire Tra parolacce. l'altro, io spero che gli americani, ma non è vera, è una speranza che so già che non funziona, e cioè che non sarà, che sarà vana, che gli americani capiscano un pelo di più dell'Italia in generale, perché Non penso ma è proprio. è Impossibile. impossibile. Però, insomma, questo è il cartone più americano, più italiano che abbia mai visto. Guarda, l'unica cosa che capiranno. Ah, mangiano tanta pasta gli italiani. L'unica cosa che sapevano già. Ah, mangio tanta pasta a posto. Sono tanto a posto. Vespa, la pasta a La posto. Vespa, esatto, la Vespa è. Che gesticolare parecchio. Però Gesticolare. gesticolare anche lì sono stati. Allora, ci sono un po' di gesti a caso. Ercole, vabbè, palesissimo. Vabbè, però. Vabbè, Il bullo è proprio. però Sì. a parte lui che è appunto è il peggiore, è il personaggio peggiore. Beh, Giulia, per esempio, è molto bella quando gesticola. Cioè, è molto Naturale. lampante, scusate. Esatto, naturale. Cioè, ci sono, non sono troppo usati a parte nel bullo, i soliti. Corsi dei soliti gesti italiani che vengono usati male, tra l'altro, nei film americani. Ok, ora posso Mamma mia, parlare. pizzeria, pizza, Mamma mia. mandolino. Non c'è la Sì. pizza. Non Non c'è c'è la la pizza. pizza, perché giustamente quello fa schifo. Ah, non si può dire. No, sì che si può dire in realtà. Realtà. No, vabbè, dai, alcune cose le sanno fare. Non la pizza, forse, però la focaccia. Cose. Non le trenette al pesto. No, trenta questo minchia. Questo sì, ci sta. Vabbè, piatto loro. In realtà Comprovo. io ho fatto una domanda poi che non c'entrava niente, è vero, come lui con un braccio solo faccia a fare il pesto. Mi hanno detto che l'avrebbe comprato, ma vabbè, l'ha comprato, quindi a quanto pare lui non fa il pesto, lo compra. Questo è un buco di trama, secondo me hanno sbagliato tutto, devono rifare. Bellissima la motivazione che dà per il suo braccio mancato, tra Ah, l'altro. sì, fa ridere. Brillanti. Cioè, è molto una roba che potrebbe raccontare un bambino, mi piace. Eh no, però cioè, è bello che lo spiega in parole così semplici. Cioè, non Sì. lo so, mi è piaciuta un sacco la scena. E mi è piaciuto anche che comunque si collega in quella scena con Alberto, lui, cioè quel collegamento che poi rivedi alla fine che non viene dal nulla, no? Infatti, esatto, c'è un'evoluzione del padre, cioè nel senso lui è il tipico personaggio un po' burbero che poi diventa, che poi si evolve, però è fatto bene, cioè è un bel personaggio. Invece il bullo, boh, è un'occasione un po' sprecata, perché è un po' una visione che c'era tanti anni fa di personaggi piatti, questo potevano farlo un minimo più tridimensionale, tipo che il padre lo picchiava, queste cose qua. No, non lo No. so, però. Perché la terza dimensione deve essere sempre picchiare? No, Sì, ora che l'ho detto ha molto senso effettivamente. Questo da riguardarmi The ci stava, esatto. Va bene, e in realtà avete altro da aggiungere? So che Andrea fremeva nel guardare. No, io ho una cosa da dire. Allora, c'è stata appunto, ne abbiamo già parlato in realtà, della cosa che vabbè, gli sceneggiatori, il regista di Luca erano un po' tristi, ci sono un po' contrariati, si dice. Del fatto che Luca sarebbe uscito su Disney Plus e non su VIP e non su al cinema. Io devo dire che il marketing che è stato fatto, almeno in Italia, io non so quanto cazzo la Disney ci abbia speso, però nonostante non sia uscito nel cinema, non puoi non sapere che c'era Luca su Disney Plus. Cioè, io non so quanti utenti ha portato di fatto su Disney Plus, però è stata un'operazione di marketing gigantesca, cioè era ovunque Luca, era anche su YouTube, era sulla pubblicità delle patatine, era su... dove cazzo l'ho vista che adesso non mi ricordo più, era su Trenitalia forse. Non ho idea, sai, non so. È ovunque Luca, Io sono fuori dal mondo, quindi non so. quindi cioè, nel senso non è uscito al cinema, però è come se fosse uscito al cinema. E non hanno i dati di persone che hanno comprato il biglietto, ma sicuramente riusciranno ad avere una audience gigantesca. E basta. Niente, sono molto contento in realtà perché è molto carino. E volevate aggiungere altre cose? Voglio il prossimo sequel della Pixar che si chiama Odysseus ed è ambientato nel sud A Italia. Martin Sicuro. È ambientato a Martin Sicuro. Ok. Ed è in realtà una persona che spaccia droga. Oh, cosa? Oh! Ci dissociamo dal pesce. Non è vero. Salutiamo il sindaco di Martin Sicuro. Ciao. Va bene, dai. Grazie di averci seguito, grazie per aver fatto la puntata con me. E non so che cosa facciamo dopo, nel senso che non avevo molte idee. E si era parlato di rievocazioni storiche o di fare un altro cartone, un'altra cosa, un altro cartone animato, non si sa. E lo scoprirete settimana Serie? prossima. E niente, ciao. Ciao. Ciao.